البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا القانون. Buongiorno Palestina. 167esima trasmissione su Radio Wombat. Mentre a Monsignor Pizzaballa, insieme a padre Ielpo, custode di Terra Santa, viene impedito l'accesso al Santo Sepolcro per le consuete previste funzioni religiose della Domenica delle Palme a Gerusalemme, rischiando un incidente diplomatico, l'unica democrazia del Medio Oriente, governata dall'ultradestra di Ben-Gvir e sostenuta da Netanyahu, introduce la pena di morte, ovviamente solo per i palestinesi e per impiccagione. Nessuna possibilità di appello e flebili e inutili le proteste delle cancellerie europee. Ma in quello stesso momento Ofer Winter, ex generale dell'esercito israeliano, sospetto criminale per cui la Indira Rajab Foundation ha depositato un esposto presso la Procura di Roma e chiesto al ministro della giustizia Nordio di intervenire, indagare e magari arrestare, era atteso a Paestum il 31 di marzo per un pacchetto vacanze organizzato da un'agenzia israeliana. Ora però sembra aver rinunciato al soggiorno. Ma in Italia sta cambiando il vento? Dopo questa urgente notizia, di cui speriamo ascoltare e vedere presto gli effetti positivi, vi segnaliamo subito le iniziative più prossime a Firenze. 4 aprile, ore 15, presidio contro la guerra davanti alla caserma Predieri, sede del comando NATO a Rovezzano. Mercoledì 8 aprile alle ore 18, contro la guerra e il ritorno alla leva. Comunità delle Piagge, centro sociale Il Pozzo. 16 aprile, giovedì, ore 18. Chi ha paura dell'Islam? Presso l'Aula Magna di Piazza Brunelleschi. Il 17 aprile, venerdì, organizzato dal CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica, il seminario Colonialismo ieri e oggi, dalle 8.30 alle 17.30, presso l'Arci in Piazza dei Ciompi. 20 aprile, lunedì alle 17, DDL Antisemitismo e AIRA, indetto da Docenti per Gaza, sempre all'Arci in Piazza dei Ciompi. Il 14 maggio, giovedì alle ore 17.30, Suprematismo Bianco, all'Info Point, Piazza della Stazione di Firenze. Troverete queste informazioni anche sulla pagina del nostro blog della trasmissione di oggi. E nella trasmissione di oggi vi presentiamo due interviste. Una all'avvocato Dario Rossi Albertini, difensore di Mohamed Hanun. E vi ricordiamo che l'architetto Mohamed Hanun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia e coordinatore di una rete di sostegno alla popolazione palestinese, è stato arrestato e detenuto da diversi mesi in base all'accusa di essere il vertice della cellula italiana di Hamas, ovviamente attraverso accuse anonime fornite dai servizi israeliani. L'altra intervista è a Michele Borgia, uno degli organizzatori del Freedom Flotilla Italia, che ci parlerà del progetto 100 porti, 100 città, un tour di mobilitazione civile che dai primi di maggio con un'imbarcazione farà tappa in tanti porti italiani, mentre contemporaneamente un camper girerà all'interno del territorio e nelle città, dove si organizzeranno incontri e gemellaggi con la Palestina, con l'obiettivo di costruire un grande corridoio di solidarietà con il popolo palestinese. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio. Buongiorno, sono Claudio, segnalo articoli pubblicati negli ultimi 15 giorni. Nel caso che vi interessi leggere per intero gli articoli segnalati, nel blog di questa trasmissione troverete i link per accedervi. Cominciamo da Amicizia Italo-Palestinese, titolo Tortura e genocidio, una sintesi del rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite sull'uso sistematico della tortura da parte di Israele contro i palestinesi dal 7 ottobre 2023. L'articolo, preparato da Law for Palestine, fa una sintesi del rapporto che Albanese ha presentato il 23 marzo e riferisce puntualmente fatti e concetti ai diversi paragrafi del rapporto, in questa maniera agevolando la individuazione dei passaggi che possono maggiormente interessare. Titolo: il tribunale israeliano conferma 17enne palestinese morto di fame in carcere, ma il giudice archivia il caso. La sentenza arriva ora, la vicenda è di un anno fa. Ricorderete forse il ragazzo era deceduto il 22 marzo del 2025 nella prigione di Megiddo, dove era rinchiuso da 6 mesi in detenzione amministrativa. Un anno fa il suo nome e la sua storia avevano fatto il giro del mondo. Walid Ahmad, 17 anni, è stato il 63esimo detenuto palestinese deceduto dal 7 ottobre 2023. Il ragazzo era gravemente malnutrito, disidratato, sottopeso, con segni di scabbia e infezioni. Il fatto che probabilmente sia morto di fame non può e non deve essere nascosto, ha scritto il giudice, che però ha comunque disposto l'archiviazione del caso. Titolo: vacanze italiane tra mare e Alpi, la decompressione dei militari IDF. Si tratta di Marche, Sardegna, Val di Susa e adesso anche il Cilento a Paestum. In un pacchetto vacanze organizzato da un'agenzia israeliana era previsto anche come relatore ci fosse nella vicenda di Paestum il sospetto criminale di guerra generale Ofer Winter. Questo generale, la Hindi Rajab Foundation, che si occupa di crimini di guerra a Gaza, ha richiesto che venisse arrestato. Il generale Winter ha deciso alla fine di non venire in Italia, designando la Hindi Rajab Foundation come organizzazione terrorista. Titolo: ONU, la tratta degli schiavi è il più grande crimine contro l'umanità. USA e Israele votano contro la risoluzione. Il dato politico centrale risiede nell'opposizione frontale di Stati Uniti, Israele e Argentina, a cui si somma l'astensione dell'Unione Europea, inclusa l'Italia. Siamo stati imperialisti. Questo atto dell'ONU non chiude una parentesi del passato, ma interroga invece il presente. Le ex potenze coloniali tentano di blindare i propri privilegi materiali, negando la radice profonda della loro ricchezza. La risoluzione dell'ONU impone quindi il tema della riparazione. Titolo: dalla base di Aviano il rifornimento per i raid sull'Iran. A rilevare l'importanza strategica della grande base aerea friulana per la campagna di guerra contro l'Iran è l'autorevole Wall Street Journal, che il 23 marzo ha pubblicato un lungo e dettagliato articolo su come l'Europa sta giocando, zitto zitto, un ruolo chiave nella guerra in Iran. Titolo: Al fianco delle masse, una carta per la liberazione dal sionismo. Intellettuali palestinesi redigono una carta programmatica per la liberazione dal sionismo. Critiche ai collaborazionisti nelle proprie file e indicazione degli aspetti che alimentano la resistenza: occupazione, espulsione, genocidio. La carta è disponibile sul sito indicato nel nostro blog. Veniamo a Assopace Palestina, al sito di Assopace Palestina. Titolo: guerra a Gaza. I gruppi filo-palestinesi definiscono storica una sentenza del Tribunale di Bruxelles. Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto la colpa dello Stato belga, rilevando che non aveva fatto tutto ciò che era ragionevolmente in suo potere al momento opportuno per prevenire e fermare i crimini di Israele. Veniamo a Presenza. Titolo: Commercio militare Italia-Israele. Attivo, strutturato, politicamente protetto. Dall'ottobre del 2023 ad oggi, almeno 416 spedizioni legate all'ambito militare e oltre 224 chilotonnellate di carburante originarie dall'Italia sono state inviate in Israele. Questo secondo dati rilevati da Giovani Palestinesi d'Italia. Titolo: I pericoli del disegno di legge sull'antisemitismo. Intervista all'avvocato Ugo Giannangeli. Giannangeli puntualizza in modo sintetico i passaggi essenziali della legge e ne evidenzia rischi di incostituzionalità rispetto agli articoli 17, 21 e 33 della Costituzione. L'intervista può essere utilizzata come un vero e proprio vademecum per docenti ed altri che dovranno, purtroppo, avere a che fare con questa legge. Veniamo al sito di Zeitun. Titolo: Ex primo ministro israeliano chiede alla Corte Penale Internazionale di fermare i terroristi ebrei in Cisgiordania dopo il blocco dei procedimenti giudiziari. Questo ex primo ministro è addirittura Olmert, che fu primo ministro nel 2006, negoziò con Abu Mazen e tentò di definire i confini di Israele. L'articolo è stato pubblicato dal Guardian. Per oggi è tutto. Come dicevo all'inizio, i link degli articoli segnalati li trovate nel blog di questa trasmissione. Alla prossima e buona Pasqua. C'è sinismo povere, c'è la di Abu Fose, ma la di Abu Fose, pone mi c'è anche se lo sai. Il teorema sulla presenza di una rete di sostegno a Hamas in Italia e in Europa è stato sostenuto da tempo dalla destra. L'affannosa ricerca di sostegni a tale teorema è andata di pari passo a ricerca altrettanto affannosa di episodi di antisemitismo che vengono catalogati come tali mediante il condiscendente documento dell'AIRA. In questo contesto è esploso prima il caso Shaheen, che si sta sgonfiando, e poi l'arresto di Annun. Tante sono state le vicissitudini subite dall'architetto Mohamed Hannoun, come abbiamo già avuto modo di parlare di lui nella trasmissione 158. Dalla fine del 2023 Hannoun si è visto ad esempio appunto chiudere i propri conti correnti personali e quelli delle sue associazioni per decisione degli istituti bancari dove erano ospitati, proprio perché ritenuti fonti di approvvigionamento Hamas. Questo perché da informazioni di intelligence si sostenne che diverse associazioni ed enti, tra cui quelle citate nell'inchiesta in corso, non siano altro che hub per il finanziamento di Hamas. Ma da dove arrivano le accuse? Già nel 2010 la PM Francesca Nanni, nel chiedere l'archiviazione di un fascicolo per terrorismo che coinvolgeva Hannoun, parlò della difficoltà, in alcuni casi impossibilità, di utilizzare del materiale trasmesso da Israele, spesso raccolto nel caso di vere e proprie operazioni militari, peraltro senza l'osservanza dei principi fondamentali che regolano l'acquisizione delle prove nel nostro ordinamento. Oggi possiamo chiederci: in uno Stato di diritto non si dovrebbe prendere per oro colato quello che arriva dall'apparato militare di un paese che sta facendo la guerra? Del caso Hannoun ne parliamo oggi con l'avvocato Dario Rossi, difensore di Hannoun. Buongiorno avvocato, nel caso Hannoun le forze antipalestinesi sostengono di aver trovato un sostegno, una giustificazione al loro teorema sulla cosiddetta rete di sostegno ad Hamas in Italia e in Europa. La domanda che le faccio è: si sta montando un caso? Sì, si è montato un caso che le cui origini risalgono ad anni fa, ecco, è dal 2021 che Hannoun e la sua associazione vengono dipinti come sostenitori di Hamas, come dediti al finanziamento di attività terroristiche, al sostegno del finanziamento dell'organizzazione per comprare delle armi, per compiere atti di terrorismo, per sostenere gli orfani dei kamikaze e quant'altro. Quindi sicuramente c'è stato un caso mediatico per cui tutti conoscevano Hannoun ben prima dell'arresto che è avvenuto nel dicembre del 2025 ed anzi negli ultimi tempi, diciamo, questa campagna mediatica si era fortemente intensificata, ecco, è stato preparato il terreno per questa operazione che quindi sembra essere venuta a completamento di tutto questo caso che era stato montato nel periodo precedente. Ma quello che risulta, che si legge anche da giornali, è che la documentazione e le cosiddette prove vengono fornite dai servizi segreti israeliani. E questo una fonte, può essere questa una fonte convincente per la procura? Per la procura evidentemente sì, perché praticamente tutto l'impianto accusatorio si fonda su questi documenti provenienti peraltro da un anonimo israeliano, documenti che sono stati raccolti durante le operazioni militari, ad esempio quella durante il bombardamento del campo profughi di Jenin nel 2002, piuttosto che l'operazione scudo difensivo su Gaza del 2014, situazione in cui l'esercito israeliano ha ucciso migliaia di palestinesi e ha compiuto delle incursioni nei loro territori, nei loro edifici, nei loro uffici, e sequestrando questo materiale che quindi ha un'attendibilità praticamente nulla in base a quanto già accertato, per esempio, in precedenti inchieste che sono state condotte nei confronti di Hannoun e della sua associazione dal 2003 al 2010 e nel 2017, inchieste che sono state tutte archiviate proprio per l'inutilizzabilità di questo materiale, che adesso invece ritorna nell'opinione della procura e ritorna ad essere utilizzabile. Diciamo che del riesame ha escluso l'utilizzabilità di questo materiale perché anonimo, Adesso la procura ha impugnato questa decisione in Cassazione per chiedere invece che venga confermata la sua utilizzabilità, e siamo in attesa dell'esito dell'udienza dell'8 di aprile per capire se anche la Cassazione concorda sull'inutilizzabilità oppure se questo materiale dovrà tornare a essere considerato ai fini del processo, dell'applicazione delle misure cautelari. Ecco, si tratta di una procura questa che si è mossa nei confronti di Annun. Si tratta di una procura politicamente orientata, a suo giudizio, o diciamo ha proceduto per dovere d'ufficio, diciamo? Ma politicamente orientata non mi sentirei di dirlo, anche perché insomma noi abbiamo sempre fiducia nella magistratura e né potremmo non avercela. Sicuramente quello che è un po' l'aspetto più criticabile di questa indagine è che la procura ha fatto proprio la ricostruzione israeliana, anche storica, che fa da sfondo a questa situazione, cioè non si parla in tutti gli atti di un morto palestinese, non si dice che gli aiuti a Gaza sono stati inviati dal 2023 in poi, quando c'era uno stato di carestia certificato dalla FAO, era in atto un genocidio per il quale è imputato e ricercato la Corte Penale Internazionale Netanyahu. Cioè, tutto questo contesto è stato totalmente prepermesso dalla ricostruzione, nella quale poi si cala questo presunto finanziamento ad Hamas, considerata organizzazione terroristica. Quindi c'è stata un po' una spina adesione della procura alle indicazioni e alle indicazioni contenute negli atti trasmesse da Israele. Non a caso questa è un'inchiesta che è stata avviata su input, su richiesta, su sollecitazione delle autorità israeliane, ed è iniziata, è stato iscritto nel registro degli indagati per la terza volta in 20 anni, Annun, nel novembre del 2023, quindi dopo il 7 ottobre, dopo l'invasione di Gaza, dopo l'inizio del genocidio della popolazione gazzawi. Questo non credo che sia solo una coincidenza. Ecco il fatto che Annun venga tenuto in prigione e non sia a piede libero, questo dipenderà dalle decisioni della Cassazione o da altro tipo di decisione? No, dipende dalle decisioni. Allora, in questo tipo di reato, in presenza di gravi indizi, è automatica la reclusione cautelare. E quindi nel momento in cui gli indizi vengono qualificati gravi, come in questo caso, viene applicata la custodia cautelare in carcere. La Cassazione potrà valutare invece se non sussiste il sufficiente grado di gravità di questi indizi e quindi disporre la liberazione di Annun e degli altri tre che tuttora permangono in carcere. Però questo si decide dopo l'udienza dell'8 di aprile, e dopodiché le indagini continueranno in ogni caso con gli imputati in carcere oppure comunque a piede libero. Un'ultima domanda: il caso Shaheen si è andato poi sgonfiando, mentre invece nel caso Annun si continua a soffiare sul fuoco. Questo dovuto a cosa? A un diverso approccio da parte delle due procure, perché si tratta di due procure diverse? Posto che quando è stato Annun, la prima cosa che ho detto è stata che questo è un processo politico, cioè gli interessi politici che stanno, e le pressioni politiche che stanno dietro il processo ad Annun sono decisamente più pesanti di quelle che stavano di fronte al dietro il caso dell'imam di Torino. Ecco, qui, cioè, Israele sono Israele, tutta la stampa filo-israeliana italiana, la politica filo-israeliana, sono anni che picchiano su Annun, hanno fatto delle trasmissioni televisive orribili in cui veniva additato come un criminale con affermazioni suggestive, false. Cioè, qui c'è veramente una volontà di un disegno nel quale a mio avviso si inserisce questa inchiesta, un disegno che proviene da Israele di distruggere la rete internazionale di solidarietà con i palestinesi. Un disegno che trova purtroppo una facile sponda nella politica italiana, in buona parte dei media del nostro paese, e in questo caso anche a livello giudiziario, che io spero che alla fine dimostri tutta la sua inconsistenza. Ecco. La ringrazio, avvocato, è stato molto chiaro. Andremo in trasmissione mercoledì prossimo e le comunicheremo l'orario. La ringrazio molto. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Freedom Flotilla. Da oltre 17 anni la Freedom Flotilla promuove missioni civili via mare per contestare il blocco imposto alla striscia di Gaza e affermare attraverso azioni non violente il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali del popolo palestinese. Freedom Flotilla Italia è parte della coalizione internazionale che organizza spedizioni navali non violente per rompere il blocco israeliano della striscia di Gaza. L'iniziativa, attiva dal 2010, persegue la solidarietà concreta portando aiuti e sfidando l'assedio, spesso intercettata dalle forze israeliane. La campagna attuale si concentra sulla mobilitazione civile, inclusa la campagna 100 porti, 100 città, per portare l'attenzione sulla situazione palestinese. Il progetto si inserisce in questo percorso unendo informazione, mobilitazione e sostegno concreto anche alle strutture sanitarie come l'ospedale di Al-Auda a Gaza. Ascoltiamo l'intervista a Michele Borgia, uno degli organizzatori. Freedom Flotilla lancia un'iniziativa per Gaza dal titolo 100 porti, 100 città. Negli anni precedenti molte sono state le missioni di Freedom Flotilla. Nessuna è riuscita però a raggiungere Gaza, ma in compenso ha suscitato un grande movimento di solidarietà nei confronti di questa iniziativa, palesemente inoffensiva, ma anche molte polemiche. Questa volta però il progetto sembra diverso. Ne parliamo con Michele Borgia, uno degli organizzatori a cui rivolgo subito le prime domande. Buongiorno Michele, l'iniziativa 100 porti e 100 città ha carattere nazionale o internazionale? E come si svolgerà l'iniziativa? Facciamo delle iniziative sia locali sia internazionali. Allora, come coalizione, oramai da 18 anni mandiamo delle navi a Gaza cercando di rompere il blocco, e questo, diciamo, è l'obiettivo primario, l'obiettivo politico, cioè l'unico modo per liberare Gaza è rompere il blocco, perché qualsiasi azione anche simbolica, portare cibo, portare aiuti, portare medicinali, può soltanto aiutare, diciamo, momentaneamente, ma quello che può semplicemente far funzionare effettivamente tutta la cosa è semplicemente aprire i valichi. Quindi liberare Gaza vuol dire far sì che possano entrare, uscire merci liberamente, persone liberamente, e anche dal punto di vista diciamo dell'etica non è neanche giusto limitarsi a questo, cioè dire andiamo a sfamare un paese, perché certo, ovviamente sarebbero in grado di sfamarsi, di autonomamente coltivare la terra, fare la pesca, scambiare produzioni insomma di piccola grande certo, manifattura, ma è proprio il fatto che vengono bloccati in tutto questo che obbliga a questa situazione, e quindi diciamo che veramente la soluzione deve essere quella definitiva. E quindi serve azione politica. Per questa ragione abbiamo pensato di affiancare alla questione storica di mandare delle barche per tenere alta l'attenzione un'azione che sia ancor più politica agendo sul territorio, e questa la stiamo facendo a livello di Freedom Flotilla Italia, ma stanno aderendo a questo progetto anche altri paesi europei, per adesso la Spagna, e siamo appunto in accordi anche con Francia, e vedremo quindi se si estenderà. Di venerdì 20 marzo alla Darsena di Viareggio avete presentato questo progetto. Qual è stata l'accoglienza da parte della cittadinanza e se ci sono state delle polemiche? C'è stata una buona accoglienza, sappiamo che questa cosa ha attirato anche curiosità, al di là delle persone che hanno partecipato, altre stanno chiedendo, chiedendo ulteriori informazioni e anche chiedendo di partecipare. E il nostro impegno infatti è quello di creare una rete che sia a livello nazionale, come dove ci siano dei nodi di interesse, e questi nodi di interesse sono fatti poi dalle reti locali, cioè dalle città, anche piccole, anche meno importanti, dove di solito invece si svolgono iniziative, rassegne, ma anche manifestazioni. Sappiamo che ci sono anche piccole iniziative o piccoli gruppi anche in città minori, ed è importante coinvolgere quelli in un discorso costante. Ecco, qual è la considerazione che facciamo dicendo 100 forze, 100 città? Diciamo che non, l'attenzione su Gaza e su Palestina in genere, anche su Cisgiordania, non deve limitarsi ai momenti in cui partono le barche, per dire, dove si crea un'onda di interesse, ma come tutte le onde sale e poi riscende. Noi vogliamo diventare marea in qualche maniera, vogliamo che l'attenzione sì, resti costante durante tutto l'anno, quindi proprio per questo tentativo che c'è di schiacciare l'informazione, di far sommergere dal silenzio, invece vogliamo che l'informazione e anche diciamo la consapevolezza su quel che accade prenda piede, prenda forza e si radichi in tutto il territorio. Mi sembra di capire appunto che questo progetto soprattutto vuol creare una rete di solidarietà per spezzare appunto il silenzio su Gaza, sulla Cisgiordania, promuovere la cultura palestinese in modo che rimanga, anzi venga diciamo assimilata dalle persone che partecipano e non venga distrutta insieme alla distruzione israeliana della gente, della popolazione, dei bambini, delle case, degli ospedali, insomma questo diciamo ecco, mi sembra di capire l'intento di questo tour. Ecco, ma quando è previsto l'inizio del tour e quali sono i porti? Prima di rispondere delle date vorrei riprendere proprio questo concetto, esattamente questo quello che ci interessa, cioè veramente portare l'attenzione non soltanto sul fatto drammatico della situazione attuale, dove bombardamenti, ma anche con la fame, con tutti gli altri sistemi, distruggendo tutti i sistemi diciamo di vita sociale, quindi attrezzature, ospedali, sistemi di distribuzione dell'acqua, sistemi fognari, tutto quanto. Non è soltanto un mettere a rischio e uccidere centinaia di migliaia di persone, è il fatto di distruggere una cultura, e su quello noi proprio anche cerchiamo di riportare l'attenzione, e infatti in ogni nostra occasione, in ogni evento, in ogni diciamo cosa che organizziamo, riportiamo questa cosa, ma non soltanto a parole. Cerchiamo di portare sempre una testimonianza di fatto da una persona palestinese che è già magari qui nel territorio, o ci colleghiamo con Gaza e anche con Cisgiordania, insomma, per portare testimonianze effettive e essere amplificatori di queste voci. Per quanto riguarda le date, in realtà siamo già partiti. In realtà noi partiremo nominalmente, ma dal punto di vista ancora una volta simbolico, il 2 maggio. E intendo simbolico perché useremo una barca, e le barche per noi sono un simbolo, un modo, un'occasione, diciamo, per portare l'attenzione. Ma in realtà siamo già partiti, perché abbiamo già iniziato una serie di iniziative già in varie città, sia porti, quindi città di mare, sia città nell'interno, e le stiamo chiamando Camminando Verso, quindi Camminando Verso 100 posti, 100 città. Infatti la data del 2 maggio è una data che abbiamo scelto in maniera così simbolica, proprio per seguire anche il 1 maggio, che è una giornata di lotta internazionale, e quindi quello sarà un lancio ulteriore di quello che già stiamo facendo, ma è già un fare comune. Anche perché noi diciamo, useremo questa barca, poi magari vi posso raccontare la storia di questa barca, eccetera, ma useremo anche un camper o un furgone o più di questi mezzi per fare azione di attenzione ancora una volta sia nelle città di mare che nell'interno. Ma diciamo che non occorre aspettare la barca, aspettare il camper per organizzare qualche cosa. Ogni punto, ogni città che si propone di far parte di questa rete e diventare quindi un nodo della rete può autonomamente organizzare delle iniziative, anche se non potrà essere raggiunta per motivi logistici o di tempo. Quindi ognuno è libero di proporre e organizzare delle iniziative, anche singolarmente, e ovviamente però è importante creare anche dei piccoli gruppi con questa occasione, ed è una delle cose che ci proponiamo. Quindi le persone che vogliono collaborare, diventare un nodo della rete, ci possono scrivere, chiamare telefonicamente, e noi daremo il supporto necessario dal punto di vista logistico, dal punto di vista informativo, mettendo in contatto, appunto, se vogliono fare delle iniziative, mettendoli in contatto direttamente con Gaza o Cisgiordania, per poter organizzare tutte queste iniziative, appunto. Quindi il 2 maggio, se ho capito bene, partirà questa barca da Taranto. Cioè, ecco, una cosa da dire così in generale è che non sarà, questa volta non sarà la Freedom Flotilla che va verso Gaza, ma è Gaza che arriverà, diciamo, da noi in Italia, è tanto, esatto, per cominciare. E quindi, esatto, l'organizzazione è tutta, diciamo, nostra, e sarà la nostra collaborazione, come te giustamente hai detto già molto bene. Ecco, ma delle ultime domande che ti faccio è: quale sarà il coinvolgimento delle amministrazioni locali? Perché ho letto che anche quelle saranno, diciamo, dovrebbero essere impegnate in attività, gemellaggi. Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Interrompiamo momentaneamente l'intervista a Michele Borgia per un breve stacco musicale. Riprenderemo tra un paio di minuti. We shall overcome one day. Deep in my heart I do believe that we shall overcome one day. And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand one day. Deep in my heart I do someday. And we'll tear down the prison wall. We will tear down the prison wall. Together we will tear down the prison walls on that day. Cosa mi puoi dire su questo? Cioè... questo è uno appunto dei nostri obiettivi, il fatto di coinvolgere le amministrazioni locali nella maniera più ampia possibile. Noi proporremo come minimo delle mozioni, diciamo, alle amministrazioni locali, delle mozioni per il riconoscimento ovviamente dello Stato di Palestina, del popolo palestinese, prima ancora dello Stato di palestinese, e questo lo dico perché molti ci dicono: ah, ma dov'è lo Stato palestinese? E per forza non è stato riconosciuto fino adesso e non esiste, no? Quindi qualcuno ci oppone questo, io rispondo: riconoscetelo, il popolo palestinese, automaticamente ci potrà essere uno Stato palestinese, ma specialmente rispetto anche alla questione di terminare ogni forma di collaborazione con Israele fino a che non si rimette a più miti consigli, ovvero evitare l'esportazione di armi o anche qualsiasi tipo di accordo commerciale, perché è proprio questa collaborazione che diventa, in una situazione drammatica come questa, diventa proprio essere complici. E quindi pensiamo che partendo dalle amministrazioni locali si possa poi fare pressione anche a livello nazionale e chiedere appunto che l'Italia non sia tra i paesi complici che esportano armi verso Israele, importano a loro volta anche armi verso Israele, quindi con anche scambio di denaro, e tranquillamente stringono le mani insanguinate dei leader israeliani. Quindi questa cosa qui si prenderà a atto anche nei porti, come quello che sta già succedendo grazie ai CALP e altre organizzazioni dei portuali, bloccando ad esempio le navi che portano armi verso Israele, ma anche in tanti altri modi, insomma, quindi come dicevo, facendo delle mozioni all'interno noi chiediamo sia i comuni che anche le province, anche le regioni, come già molti comuni, province e regioni hanno già fatto questo riconoscimento e questa occasione, insomma, anche di parlare più approfonditamente all'interno delle istituzioni. Sì, sicuramente, già anche qui in Toscana, sai, di Pisa, quando hanno bloccato dei treni per quanto riguarda il discorso dei porti, insomma, che stavano... treni che portavano armamenti, eccetera. Ecco, ci sarà anche in queste iniziative il coinvolgimento del BDS? Sì, allora questa cosa noi da tempo, appunto, visto che da anni operiamo, da tempo abbiamo avuto varie occasioni di collaborare con il BDS, sì. Ed è una delle campagne che portiamo, cioè noi chiediamo alle persone il boicottaggio. Il boicottaggio è una forma che pensiamo importante di pressione, perché Israele non è che la convinciamo con le parole, la convinciamo solo se di fatto la obblighiamo in qualche maniera a prendere atto di quanto il resto del mondo non è d'accordo con le sue politiche. E per farlo l'unico modo è quello che è avvenuto anche con il Sudafrica, quando in Sudafrica c'era l'apartheid. L'unico modo per convincerli non fu appunto opporsi idealmente all'apartheid, ma creare un grande movimento internazionale di boicottaggio, che quindi mise in difficoltà economica il governo che era per l'apartheid, obbligandoli nella pratica a cambiare politica. Ecco, pensiamo che quella sia una delle cose più importanti. Quindi sarà una delle campagne che portiamo in giro, ma porteremo forse quella più importante per noi è quella di non limitarsi alla solidarietà ideale con la Palestina, ma nella pratica. Infatti noi chiederemo di aiutare l'ospedale Al-Auda, il complesso ospedaliero Al-Auda, Lo chiamiamo confesso ospedaliero perché sono due ospedali principali, uno nel nord della striscia, uno al centro, più una decina di cliniche che si occupano di, in particolare anche del supporto psicologico, il supporto alle nascite e altre questioni. Insomma, per noi è molto importante, da anni li stiamo aiutando, cerchiamo di raccogliere del denaro da mandare e pensiamo che vada amplificata questa azione, vada estesa, perché è un modo reale di portare aiuto. Sappiamo che ciò che noi mettiamo a bordo delle nostre imbarcazioni, sia cibo che medicinali che attrezzature mediche, viene sempre diciamo preso da Israele e non viene consegnato, anche se loro dicono no, ci pensiamo noi a consegnarlo, non abbiamo feedback di questo, non è mai avvenuto, anzi se lo prendono, come è accaduto, abbiamo visto anche con la Conscience, la più grande barca, più grande imbarcazione dell'anno scorso, dove prima ancora di arrivare al porto di Ashdod, dove ci hanno trascinato invece di lasciarci andare verso Gaza, sì, accostavano già con altre imbarcazioni e scaricavano tutta la merce che avevamo a bordo, tutti i medicinali e tutte le attrezzature mediche, e se le sono letteralmente rubate. Ecco, questa è veramente una vergogna. Se pur Israele avesse un senso della vergogna, questo sarebbe una di quelle occasioni per vergognarsi molto. Ti faccio l'ultima domanda, che siccome a Viareggio partirà l'ultima, cioè non l'ultima, una delle tappe centrali, sarà una delle tappe centrali del tour di Frido Flotilla, e partirà questa nave, la Ghassan Kanafani. Ora, ci vuoi ricordare te, perché è stata fatta questa scelta di dare questo nome, chi era Ghassan Kanafani e cosa rappresenta ancora, cosa potrebbe rappresentare anche per l'Italia, per gli italiani che sono vicini alla Palestina, e naturalmente cosa rappresenta per i palestinesi? Certo, noi cerchiamo sempre di dare un nome simbolico importante alle nostre imbarcazioni, in questo caso abbiamo scelto il nome di Ghassan Kanafani perché è stato un personaggio molto importante come scrittore, come diciamo autore, ed è stato uno dei purtroppo dei tanti martiri appunto uccisi poi dall'entità sionista. Rappresenta un personaggio importante dal punto di vista non solo diciamo politico, ma anche ideale, anche rappresenta anche la poesia che c'è dietro un popolo come il popolo palestinese, che in realtà è sempre stato un popolo tranquillo e viene dipinto come un popolo di persone disposte a tutto, ma come in maniera aggressiva, invece sono disposte semplicemente a difendersi. Cioè, non si può dire che un popolo è terrorista perché si difende da un attacco, anzi gli attacchi, qualsiasi popolo oppresso è riconosciuto, a qualsiasi popolo oppresso viene riconosciuta la libertà ovviamente di difendersi, perché è una libertà per cercare la propria libertà, ecco, quindi diciamo non è quello il punto, no? Certo. Rappresenta quindi diciamo un personaggio importante, e portare in giro il suo nome attraverso un'imbarcazione rappresenta portare la stessa cultura palestinese, come dicevamo. Sicuramente. Ci teniamo molto a questo fatto, ecco, di portare in diventare, diciamo che vogliamo diventare voce, vogliamo diventare amplificatore delle voci palestinesi, perché anche questo è importante. Diciamo che la liberazione del popolo palestinese appartiene al popolo palestinese. Però nessuno si può sostituire o dare l'idea di voler diventare, diciamo, una cosa alternativa, cioè una strada, indicare la strada in maniera alternativa a quella che possono fare loro. Anzi, molte volte diciamo che i palestinesi ci insegnano la vita attraverso la loro capacità di resistere in questi anni senza mai chinare la testa, dicendo che vogliono rimanere. Quando gli viene proposto anche di andare via pagati, ovviamente loro dicono no, loro vogliono stare sulla propria terra, perché la propria terra è la propria cultura, è il proprio radicamento, è il proprio modo di sentire profondamente la vita, la vita è legata alla propria terra, alle proprie radici, alla propria storia, alla propria cultura. Ed è quello che invece Israele vuole fare, vuole non soltanto cancellarli come popolo, ma cancellarli come cultura. È pazzesco. Posso concludere, allora poi ti faccio un'ultimissima, possiamo dire che allora la solidarietà e che con questo progetto viene, diciamo, propagata, non è solo un gesto simbolico, non deve essere solo un gesto simbolico, ma può diventare un impegno civile per tutti. Ci puoi dire dove trovare, o dire a chi ascolta, soprattutto a chi ascolta, dove trovare informazioni su Freedom Flotilla 100 porti e 100 città, e come attivarsi appunto tramite appunto l'informazione, dove? Sì, allora abbiamo varie presenze sui social, principalmente i due social su cui siamo più presenti sono Facebook e Instagram. È facile trovarci perché riguarda proprio il nostro nome, cioè cercando Freedom Flotilla Italia. L'unica cosa strana è che molti scrivono poi Flotilla, invece questo nome è spagnoleggiante, Flotilla, quindi con una T sola e due L, non c'è la G. Flotilla, quindi Freedom Flotilla Italia, scrivendolo così è facile trovare la nostra pagina Facebook o il nostro profilo Instagram. In più, proprio in base al progetto, abbiamo creato anche una pagina che si chiama proprio 100 porti, 100 città, che è centrata sul progetto, sempre su Facebook, e anche una cosa, un'altra pagina ancora che si chiama Agenda Palestina, dove mettiamo tutte le iniziative che sono in corso, in modo che per le varie città sia facile anche individuare quali sono i tempi e i luoghi dove si svolgono delle iniziative. Quindi se uno va sulla pagina chiamata Agenda Palestina, troverà un po' un cronoprogramma, troverà questa cosa che molti ci chiedono, ma a quale data esatta sarete nel tale posto, nella tale città? È chiaro che non si può dire in anticipo, perché è vero che sappiamo la data di partenza, ma il percorso cambia a seconda delle date di permanenza, dello stato meteo, perché una barca non può muoversi liberamente, deve sempre tenere presente lo stato del meteo e tante altre questioni, cioè ci possono essere dei problemi tecnici da risolvere, eccetera. Quindi daremo man mano delle indicazioni di massima, tanto che per sapere più o meno il periodo, ma poi le date esatte potranno essere trovate lì. C'è un'ultima indicazione che posso dare, ed è un sito web. Abbiamo anche un sito web che, a differenza dei social, dove tutto scorre, invece può rappresentare un luogo di informazione più fermo, ed è freedomflotilla.info. E quello è in stato di aggiornamento, perché ci siamo più concentrati sui social, il sito web è un pochettino indietro, ma proprio in questi giorni lo stiamo aggiornando, e lì si troveranno poi tutte le informazioni, sia storiche su Freedom Flotilla, ma informazioni ovviamente su Gaza e Cisgiordania, perché per noi non è importante l'autoreferenzialità, parlare delle nostre iniziative, quanto poi parlare di Gaza e Cisgiordania. Infatti nelle nostre pagine troverete tante informazioni in questo senso. Perfetto, io Michele ti ringrazio e spero che, se sarai d'accordo, resteremo in contatto per futuri aggiornamenti sul tour. Certo, man mano che andremo avanti potremo quindi dare appunto queste date, elencare le iniziative e anche indicare come dare una mano. Principalmente quello che chiediamo è dare una mano, come ho detto, all'ospedale Alauda, ma anche ovviamente dare una mano per le iniziative che facciamo, per finanziare i costi vivi, ecco, perché ad esempio anche solo carburante per spostare la barca, per poter quindi raggiungere, spostarci da luogo a luogo, ma tutte le cose che facciamo, noi le facciamo a livello di volontariato, ovviamente nessuna delle persone viene pagata, rimborsata, se non eventualmente di costi vivi chi non se lo può proprio permettere, ma l'abitudine, diciamo la nostra etica, è quella che ognuno deve contribuire anche personalmente ai spostamenti, a tutto quello che organizziamo. Ecco, sì. Quindi questa deve rappresentare anche un punto di vista etico importante. Diciamo che tutto ciò che viene raccolto deve servire per la causa e tutto quello che riusciamo a mandare direttamente in Palestina. Ti ringrazio, soprattutto per quanto riguarda il discorso di Al-Auda, degli ospedali di Al-Auda. Noi, no, dico noi perché insomma anch'io faccio parte di Asso Pace Palestina e quindi noi abbiamo già questo progetto, abbiamo già mandato a Gaza un discreto numero di, insomma, di contributi. E speriamo di poter continuare anche con questo, sicuramente è un aspetto molto importante che ognuno di noi e anche chi ancora, chi ci ascolterà potrà aggiungersi ai tanti volenterosi appunto con iniziative personali su questo progetto e su di noi. E sia sulle pagine nostre che ovviamente che sulle pagine della Sopace Palestina, chi vuole può trovare sia i link dei crowdfunding, quindi per versare tramite carta, o anche i dati per versare tramite bancario, trovate l'IBAN e quindi cercateli sia sulle pagine della Sopace che sulle pagine di Non Fossila. Grazie a tutti. Grazie ancora Michele, ciao, alla prossima. Ciao. That we will tear down all those prison walls on that day. And the truth will set us free. The truth will set us free. The truth will set us all free. On that day, deep in my heart, I do believe that the truth will set us all free. On that day. We'll walk hand in hand. We'll take back the land. We'll plant our olive trees from the Jordan River to the sea, and from Myanmar to Lahore. The thugs will fear to tread, no more kicking in the door. We choose human rights instead, and in Chile and Brazil, El Derecho de Vivir and Paz will echo down the boulevards, eliminating fear. And from Chicago to Portland, we will draw the battle lines. We will gather on the balconies and throw the windows wide. And we will bang our pots and pans and shout, and the casseroles will roll out across the land to each and every spot where any man takes what another man's got, lives in a house that another man built, picks fruit from the land another man tilled, and drives in a car on a tarmac road with a tunnel underneath where the local people go. Democracy. Era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 15 di aprile, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو راح ترجع بلدي كلها. Slavko, John, Slavko, John, Slavko, John, John, John.